Friuli nel mondo, 95esima trasmissione dedicata agli emigrati. Sagra di Carnia a Villa Santina. Gran sagra a Villa Santina per la festa del patrono San Lorenzo. Nella ridente conca si sono dati convegno anche molti carnici delle vicine vallate che, dopo le funzioni religiose della mattinata, hanno sostato a Villa fino a tarda sera per assistere alla quarta edizione della Sagra della Canzone, che ha visto sfilare sul palco apprestato in piazza della stazione con la presentazione di Luciano Romano, cantanti, suonatori, ballerini e cori folcloristici locali in nobile gara per divertire il pubblico e dare prova della loro abilità artistica. Una rassegna che ha visto intrecciarsi villotte moderne a villotte antiche, canti patriarcali a canti del nostro tempo. Moltissimi gli emigranti in breve riposo. Uno di essi, anzi, Arancino Contin, ha voluto dare un saggio delle sue doti di provetto fisarmonicista. Il coro Sotlanape di Villa Santina ha fatto conoscere poi per la prima volta al folto pubblico la villotta Le Stagioni di Felice Cimatti, su testo di Giso Fior. Entre finta in me, il giovane Galdino Turco si è fatto applaudire nella esecuzione della Staiare di Guido Cergoli su versi di Dino Virgili. Ma a questa nuova briosa composizione friulana, il gruppo dei Paesani di Prato Carnico ha voluto contrapporre una villotta carnica antica e semplice, dal titolo La Panadute. Ma tu pierricchio la note, che rogiutei la chiolio. Ma tu pierricchio la note, rinchiol tu chiolio, e poi farin la panadote, e poi dirin chiol tu chiolio. Ma tu pieri chiolla nu, che rogiutei la chiolio, e poi farin la panadote, e poi dirin chiol tu chiolio, e poi dirin chiol tu chiolio, e poi farin la panadote, e poi dirin Chiol tu, chiol io. Galdino Turco si è ripresentato alla ribalta per cantare la nostalgica canzone friulana del Festival di Pradamano dal titolo Tiare lontane. Soy sol perdu, tale savalo, soi che ti ali, soi che pensi, viene senta su d'un barchio. Curi mi va quant'io so lontan di te, io ti puoi sempre tambè, o paese ti areme. Ma non poteva aver fine questa sagra carnica senza una accorata villotta nata secoli fa dal cuore semplice e poetico dei valligiani di Mieli, che ha profondamente colpito la sensibilità dei presenti per la sua salda struttura armonica su un testo di estrema, quasi religiosa purezza popolare. Questa villotta, cari amici in ascolto, è forse fra le più genuine del ricco patrimonio di civiltà carnica. Rappresenti essa il miglior suggello a questa sagra che ha inteso recare il segno delle più schiette tradizioni del nostro Friuli. La canta il gruppo dei paesani di Prato Carnico. Mieli, mieli, sempre mieli, mieli, mieli, estravi. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.